your practice, specifically about the technique? Any problems? Any? Sono delle domande sulla pratica specifiche riguardo alla tecnica, per esempio, o altro? Io non so se riguardo alla tecnica o riguardo a me, io quest'anno, l'anno scorso avevo il problema che mi faceva male dappertutto, quest'anno ho sonno, mi viene da addormentarmi e la cosa, ieri mi sarei sdraiata per terra per dormire proprio, adesso meno, ma comunque mi viene da addormentarmi ed entrare come in un sogno. In continuazione mi richiamo indietro e peraltro nell'ora del riposino sono andata a riposarmi sperando di dormire ed ero sveglissima. The problem is this, that last year she had a lot of pain. This year she doesn't have pain in her body, but she gets very sleepy. She has this kind of sloth and torpor that's kind of overwhelming. And she says yesterday she was even willing to just lie down on the floor and sleep. But today it's a little bit better, but still she kind of goes into these dreamlike states of mind. And then she went for her nap and she couldn't sleep when she did go. So every retreat presents us with a different scenario. Ogni ritiro ci presenta uno scenario diverso. One can never tell. No, no, non può mai dire. It usually comes as a disappointment. Di solito però arriva come una delusione. Sleepiness, tiredness, I'll be talking about that this evening, is one of our greatest hindrances. Ma questa nolenza, la stanchezza, e ne parlerà di più questa sera, è uno dei nostri ostacoli principali. What your experience suggests to me is that you have been lifting energy, you see, so that when you came to lie down, there was actually good energy there. Quindi l'impressione che ho io da quello che hai detto è che tu probabilmente stai facendo un lavoro di sollevare, no, l'energia, e quindi questo spiega perché quando poi ti sei sdraiato non hai avuto sonno. Having realized that you couldn't go to sleep after lunch, I presume you immediately took up the meditation posture. Suppongo che quando si sei accorta che non riuscivi a dormire dopo il pranzo, ti sei immediatamente seduta e preso la posizione. Avrei dovuto? Yeah, of course. It's like trying to forget something. Every time you try and forget something, you remind yourself of what it is that you're trying to forget. È come dimenticarsi qualcosa. Ogni volta che uno ha paura di dimenticarsi di qualcosa, è come se si ricordasse della cosa di cui ha paura di dimenticarsi. Forse il giro di parole non è so chiaro. So it's the same with sleep. Trying to go to sleep keeps waking you up. E quindi è come cercare di addormentarsi. Tu cerchi di addormentarti, e il cercare di addormentarti ti tiene sveglia. Quando devo etichettare proprio le sensazioni, when I have to name them, or keep naming as I'm going, I have a lot of difficulty. You said in Italian. Okay. And then you could translate in English. Trovo difficoltà di fare questo, un po' perché sto cambiando da un tipo di meditazione di partner da un altro, proprio un po' così, però A volte le sensazioni cambiano, oppure sono molto veloce, che mi perdo, faccio un po' di confusione lì e poi non so se devo tornare proprio alla respirazione e questo salire e scendere e salire. Ma a volte in mezzo alla sensazione faccio anche quello e penso che vado in un po' di confusione e mi perdo. To say it in English. Okay. To English speakers. Yes. Sometimes when I'm meditating and I have sensations and they change, or I notice that there are, for example, pain, you get sensations, and then under that there are other sensations which I have a problem naming, or I forget, or they change very quickly, and I get then sort of into a confusion because I'm trying to name, and then I've got to remember to breathe, I think I'm making myself a little confused. Yeah. Yeah. Well, remember, the breath is known as the primary object. Quindi il respiro è ritenuto essere l'oggetto primario. Because we normally begin with that. Di solito iniziamo col respiro. And when when everything is calm, we go back to it. Quando tutto è calmo, torniamo al respiro. And when we feel lost or confused, it's good to just stop for a little while and begin again with the breath. Quando ci sentiamo persi o confusi, allora è bene fermarsi un attimo e tornare al respiro. Right. After that, it's whatever draws the attention. Dopodiché si va verso qualunque oggetto attiri la nostra attenzione. Yeah. So now, if there are many objects, many feelings, many things going on, I always think it's best to go towards the one that interests you. Quando ci sono molti oggetti, molte sensazioni o cose di questo genere, è bene andare verso quello che attira maggiormente il nostro interesse. Mm. And even though while you're there you can still sense other things going on, just keep your attention on the one thing, you see. E anche se mentre siamo su quell'oggetto ci sono altre cose che avvengono, manteniamo la nostra attenzione però su quell'oggetto. Mm. Otherwise a restlessness can begin while you're trying to note everything that's happening in the mind, you see. Perché sennò subentra una sorta di irrequietezza cercando di capire tutto quello che sta succedendo nella mente. Perché è proprio come non riesco di notare tutto in tempo. Yeah. No, you can't. No. You can't, at times, you can't note everything that's going on because the mind is moving so fast. That's its agitation. A volte non è possibile notare tutto quello che accade perché che accade nella mente, perché questa è l'agitazione. So, we have to just be patient with the mind until it slowly exhausts its energy, you see. Dobbiamo essere pazienti con la nostra mente, aspettare che come se esaurisse la sua energia. When I say mind here, I also mean the heart, emotions. Quando parlo di mente intendo anche il cuore, quindi l'emozione. So, what do you do when what do you do when you are so bored? It's not there's so much going on, or there's no. Like I'm just. This morning I was thinking about my holidays and thinking of lots of things, and I had quite a nice time. And this afternoon I really tried to breathe, and I just became so bored. Quindi chiede come affrontare il problema della noia. Dice che stamattina si è programmato tutte le sue vacanze, quindi si è divertito abbastanza. Però nel pomeriggio ha cercato di concentrarsi sul respiro e si è annoiata a morte. If you were to go to anybody in the streets and say, listen, I want you to do this really interesting thing. I want you to watch the breath. Se andassi da qualunque persona per strada, dice, senti, ti propongo di fare una cosa veramente interessante, ti propongo di osservare il tuo respiro. So, when boredom arises, that's your object. Ah, Quando sorge la noia, ecco quello il tuo oggetto. That's the object to feel, to observe, to sink into, to get to know what is boredom before you give it a name. Quindi uno veramente cerca di sentire, di percepire, di conoscere bene cos'è questa noia prima di potergli dare un nome. Mm. You see, what's happening is the boredom comes, I identify with the boredom, I am bored. Perché cosa succede? Che sorge la noia, uno ci si identifica e dice io sono annoiato. And as soon as I am bored, I am bored. E non appena io sono annoiato, io lo sono veramente. And there's no way out of that. E quindi non si esce. That's a hell realm. È il regno dell'inferno. It's a hell realm. That's what we mean by a realm of hell. I mean, you know, you just get, you can't think of anything worse. 5 more days. 5 more days. Yeah, I can't imagine it. 5 more days. So the. Ancora 5 giorni di questo inferno. So whatever arises within that field of awareness, you see, we don't identify with it. We turn upon it. We actually, you know, try to experience it fully and to see what it is, what's it made of. Quindi qualunque cosa si affacci in questa sfera della consapevolezza, noi non è che ci giriamo, ci allontaniamo, ma cerchiamo veramente di sentirlo, di percepirlo, di sapere come è fatto. Mm. And you're interested in your relationship to it. Quello che ti interessa è la tua relazione. Mm. So boredom is not a pleasant state. One doesn't want to be there. Quindi la noia non è una sensazione piacevole. Uno non ci vuole stare. Mm. So where's the suffering? Is it the boredom or is it my relationship that's causing the suffering? Dov'è la sofferenza? Sta nella noia o sta nella mia relazione con la noia che crea la sofferenza? Yeah. And of course, when boredom comes, you have to remind yourself, boredom has come through the process of indulgence. Quando sorge il dolore, scusate, la noia, uno dovrebbe ricordare a se stesso che questa noia è sorta a causa del processo dell'indulgere, del lasciarsi andare, del essere attirati verso il piacere. See, that's the connection that I was talking about with food, you see, trying to get that connection between these negative states and indulgence. È quello il tipo di collegamento che sottolineavo anche riguardo al cibo, e quindi la differenza tra the connection between these negative states such as boredom and frustration and indulgence. Sì, quindi la connessione tra questi stati negativi e l'indulgere, quindi stati negativi che sono appunto la noia, la frustrazione, quello che è, e l'indulgere, si dice questo in italiano, no? If a person leads an exciting life, walking into a meditation hall is pure hell. Per una persona che vive una vita così di eccitazione, di emozioni, entrare in una sala di meditazione è un inferno. So here we are developing a taste for silence, for peacefulness, for non-excitement. Qui stiamo sviluppando questo gusto per il silenzio, per la pace, per il non-eccitamento, non-eccitazione. So this is why I say one of the good practices to have is this abiding in the present moment. Per questo dico sempre che una delle buone pratiche da avere è questo semplice dimorare nel momento presente. Mm. When during the day the heart sinks into a state of peace, a state of quietness, you see, if you're going to indulge anything, indulge that. Quando durante la giornata, quindi il cuore è come se si riposasse in questo stato di tranquillità e di pace, beh, se dovete proprio scegliere qualcosa alla quale indulgere, beh, scegliete questo stato qui. This in Christian religious circles is known as quietism. Questo nella religione cristiana si chiama quietitudine. Pascal. Pascal, Blaise Pascal, people like that. So they they would quiete. See. So this was one of, now then it becomes a problem because you're now attached to quietude, you see. E lì diventa un problema perché uno poi si attacca a questa quiete. There are dangers everywhere. Pericoli dappertutto. Pitfalls. Come si chiama? Pitfalls. Sì, queste trappole, insomma, buche. No? Yeah. Un'altra cosa sulle etichette. Quando facciamo la camminata, mi capita di vedere un sacco di cose che altrimenti non vedevo: ciliegie, foglia che si muove, formica. È una distrazione o è quel che c'è, diciamo? During the walking, she happens to see things that she normally doesn't notice, like a cherry or an ant or a leaf that moves. Is this a distraction or is it just that she's seeing things more? No, it's because the awareness is wakening up. I remember after my first retreat in Zen Buddhism, I was amazed at how green the grass was. Mi ricordo dopo il mio primo ritiro, dopo un ritiro nella tradizione Zen, mi sono meravigliato di quanto fosse verde l'erba. The doors of perception are clean, are cleansed. Perché queste porte della percezione sono ripulite. The doors of perception is what they call it in Buddhist literature, doors. They call them doors. Nella letteratura buddista le chiamano proprio le porte della percezione. But when you do the meditation, you notice that, right? But your attention keeps coming back to the foot, you see. Quando fai la meditazione camminata, tu noti quello che c'è, che vedi, però poi l'attenzione deve tornare sul piede. Remember, the purpose of the walking meditation is to use it to really bring a very quiet concentration. Lo scopo della meditazione camminata è di sviluppare questa concentrazione tranquilla. And remember, if there's a lot of emotion in the heart, then you don't do the slow walking meditation, you just walk gently up and down, keeping your attention in the body. Se c'è uno stato emotivo nel cuore, allora uno non fa la meditazione camminata lenta, ma fa quella un pochino più, come dire, tranquilla, sì, però senza rallentare troppo. E poi comunque ti riporti sempre nel corpo. So it's the same if you feel very restless, you see, just walk up and down feeling the restlessness. È lo stesso se ti senti un po' irrequieta, quindi senti l'irrequietezza e vai così tranquillamente avanti e indietro. And the same with dullness and lethargy. You just walk gently up and down, keeping the attention in the body, see? E anche con questa mente un po' intorpidita, questa letargia, uno va avanti e indietro, mantiene l'attenzione nel corpo. So you have to be skillful in the use of walking meditation, you see. Bisogna essere un po' abili nell'uso della meditazione camminata. So when you begin your walking meditation, ask yourself what is the move, what is the state at the moment. Quindi prima di cominciare uno si deve chiedere qual è il mio stato d'animo, qual è il mio umore all'inizio di questa camminata. A proposito del momento dell'inizio della camminata, io prima di trovare una maggiore quiete utilizzo una sola etichetta, cioè camminare oppure passo oppure movimento. So he's saying that, speaking about the beginning of the walking meditation, to find this kind of calm and balance, you know, he uses just one label, which can be either walking or step or movement. You mean while he's standing? Questo prima di, cioè quando sei ancora in piedi? No, quando no, no, quando hai cominciato, no, the beginning then. Yeah. Well, the attention is better placed, you know, if you're doing the walking meditation as a, if you're actually doing the practice of walking meditation, your attention is on your foot. Se stai facendo effettivamente la pratica della meditazione camminata, l'attenzione deve essere sul piede. And the noting word really ought to describe what's happening. Quindi l'etichetta mentale deve effettivamente descrivere quello che sta accadendo. So if you want to use a general word, you know, like moving, fine. But if you can get closer to different movements, that's even better. Quindi se vuoi usare una parola unica, un'etichetta unica, come per esempio muovere, allora va bene, però se riesci ad avvicinarti ancora di più è meglio. The noting is inviting, inviting the intellect to support the observation. Quindi questa nota mentale è un invito all'intelletto di sostenere l'osservazione, a sostenere l'osservazione. For instance, if you were doing walking meditation and you were saying, I scream, wouldn't se durante la meditazione camminata se tu dicessi gela non funzionerebbe. Yeah, there's got to be some connection. Deve esserci un collegamento. But if no word comes, then just a generic word like feeling or sensation or. Però se non viene nessuna parola, allora ne va bene anche una generale, tipo sensazione. O... Sì. Ma quindi volevo chiedere una cosa, perché a me capita ogni tanto mi dico alzare, avanzare, e ogni tanto sto solo concentrata sul movimento del piede e sulle sensazioni. Devo per forza dire. So sometimes she says like lifting and pushing, other times she's with sensations in the foot. Without noting. Without noting. Does she actually have to always say the word? Well, the noting is a technique. Questa della nota mentale è una tecnica. And the point of the technique is to get you beyond the technique. E quindi lo scopo della tecnica è perché tu possa andare oltre la tecnica. Now, you would go beyond the technique when your mind is, when your steadiness of attention is truly fixed. Quindi puoi andare oltre la tecnica quando la tua stabilità dell'attenzione è veramente fissata, è sviluppata. Io ho anche un problema con le etichette, perché poi vengo presa da questo rush delle etichette e non faccio che dare etichette. So it's kind of, you know, to worried about giving this label. She's labeling. She starts labeling everything. Yeah. Yes, I've just been reminded it's called label mania. Si chiama label mania dell'etichetta. At first, when you begin this labeling, the mind is searching for appropriate words. All'inizio, quando si comincia questa etichettatura mentale, la mente cerca le parole giuste. And the idea of a retreat of this kind is that every day should be virtually the same. L'idea, un ritiro di questo tipo, è che ogni giorno dovrebbe virtualmente essere uguale all'altro. Un giorno dovrebbe essere uguale all'altro. Every day you get up, you brush your teeth, you go for breakfast, sit, walk, sit, lunch, sit, walk, sit, lunch, sit. And you go, every day is the same, same, same. Never, nothing changes. Quindi ogni giorno è così, ti svegli, ti lavi i denti, ti vesti, cioè colazione, seduta, camminata, seduta, pranzo, eccetera, eccetera. Tutti i giorni uguali, non cambia quasi nulla. Mm. So the outer form never changes, which means that the words always are the same. Quindi siccome questa struttura esterna non cambia mai, allora le parole sono più o meno sempre uguali. Mm. Now when that happens, you see, we can now, you know, move more deeply into the experience itself. Quindi quando questo accade, allora ci si può avvicinare all'esperienza stessa. Mm. Ah, scusa, entrare dentro più profondamente nell'esperienza. Mm. See? Ah, very good. So, camminata. More of the time.